solo. Così pensava un uomo prima d'esserne solo. Nella mano impugnava, quasi fosse distratto, il biglietto per un viaggio che voleva aver già fatto. Nell'altra impugnava un'arma ancor più tagliente, un foglio per spiegare il motivo di un niente. Spinse la sua mano verso la destinazione e poi sbocciò una lacrima dalla sua espressione. Ora qui non c'è più il motivo, padre. Con il viso, legandosi la pena di un ultimo sorriso, la sua anima lo lascia senza avere evitati, indirizzata al paradiso dei dimenticati. Lo videro mai morto, gente mai da lui incontrata, sprovvisti della carezza da lui sempre sognata. Gli diedero poi l'appellativo di suicida, legandogli la gioia di sentirsi una persona. E ora solo che era livido dentro sì, lui scrisse solo che era livido dentro sì, lui scrisse solo che era livido dentro sì, lui scrisse solo che era livido dentro sì.